va letta con una risata, nel senso che bisogna, bisogna farsi una risata prima di tutto. E poi dopo, secondo me, c'è, c'è una sottile linea rossa tra tutto quello che sta accadendo, diciamo, nel, nel, nell'ultimo anno di governo giallo-verde, no? Come viene definito. E Lino Banfi è sicuramente il padre putativo di questa maggioranza a livello culturale. Spiego subito perché. In, innanzitutto c'è un elemento di vicinanza col Premier, questa pugliesità, ma questa pugliesità intrisa di cattolicesimo e popolo, proprio quelle robe da, da trullo, un po' da luoghi comuni, no? È tutto un rimescolamento di antropologico che ci porta, secondo me, comunque ad una come dire, straordinaria atipicità, cioè ci facciamo riconoscere per delle scelte molto molto curiose, molto bizzarre, e in questo caso devo dire il legame è così forte a livello di premierato che non poteva mancare Lino Banfi. Da qualche parte doveva finire il nostro Lino, era inevitabile, secondo me era inevitabile. Poi il Ministero della Cultura era già occupato, c'è la Bergonzoni, c'è Bonisoli, insomma, quindi molti posti erano già occupati. Veltroni si è avvicinato a tante istituzioni, Festival di Pesaro, il David, eccetera, quindi come dire, Banfi dove poteva andare? Effettivamente, secondo me, la sintesi della sua candidatura, anzi della sua affermazione all'UNESCO era inevitabile, è l'ultimo passaggio di una di questi mesi concitati attorno ai temi, ai grandi temi della cultura italiana. Io colgo appunto alcuni spunti da quello che ci hai appena detto, anche per farti una domanda seria, perché leggendo politicamente, no, questa notizia, come dire, si ripropone quella dicotomia tra, come dire, radical chic nei salotti con la cultura che non capisce nessuno e invece una cultura popolare, quella appunto alla Lino Banfi e non solo, in questa con questa sì. Nomina? Sì, certo. Allora, questi due elementi, io dico una cosa, visto che siamo sul piano della serietà e entriamo un po' in un campo che conosco meglio, che è l'ambito un po' del cinema e dello spettacolo. Tu parlavi di questi due grandi insiemi, no? Cultura alta, cultura bassa, mettiamola così. Allora, attenzione, tra gli anni 70 e 80, ma forse anche prima con i Monicelli, Risi, eccetera, Questo legame era indissolubile, cioè l'alto e il basso si incontravano in un livello, come dire, medio-alto, e era una sintesi a livello di comicità, a livello cinematografico, molto importante ed era trasversale, cioè un film di Monicelli con Gassman, Sordi, bla bla bla, veniva visto da tutti, cioè dal Presidente della Repubblica fino al disoccupato di Caserta, per dire. Ecco, questo è il primo elemento. Banfi, con il Villaggio, i Pozzetto, eccetera, no? 70-80 come decadi, recupera quel tipo di tradizione. Chiaramente lo abbassa a livello di volgarità, di erotismo, con quello che è stata un po' la liberazione dei costumi, no? L'erotismo degli anni 70 vede comunque un Banfi esplodere, no? Quest'uomo incapace di poter gioire ma di tutte, appunto, questi nuovi stimoli, no? A livello erotico-sessuale, ma che non riesce mai a portarli a termine, no? Nei film degli anni 70 e così, ma anche poi in quelli degli anni 80. Allora, evidentemente in Banfi poi e nei Villaggio Pozzetto si sintetizza qualcosa che c'era prima, e lo si fa abbassando un po' l'asticella, però i Banfi, Pozzetto e Villaggio sono veramente stati visti da tutti. A questo punto mi sembra interessante capire poi cosa è successo tra gli anni 90 e 2000, perché è lì il momento di stacco, no? Fra questo alto e questo basso. E cosa è successo? E alla fine sono stati tutti relegati, chi? Dimenticato, no? Villaggio. Banfi ha fatto un'onoratissima carriera televisiva diventando il nonno del Medico in Famiglia, nonno libero, è stata una figura che destra e sinistra in questo paese comunque hanno preso come punto di riferimento umano, sociale, morale. Nonno libero non avrebbe mai lasciato migranti in mare a perire sui barconi, intendiamoci. È proprio questo, E secondo me, questo lo dico con molta serietà, il legame Banfi lega l'alto e il basso come forse non è mai riuscito nessuno a fare, e paradossalmente diventa una carta da giocare in un contesto internazionale serissimo. Lui stesso ha detto, e leggevo poc'anzi, che c'entro io con la cultura. Allora attenzione, ecco, la cultura, ricordiamoci sempre, al di là della barzelletta, la cultura è anche saper comunicare dei messaggi in modo semplice, basta che questi messaggi non siano appunto dei messaggi di malvagità o di orrore. Ecco, quindi ribadisco, la sintesi attorno a queste figure dagli anni 70 80 in avanti di comici, questa sintesi tra l'alto e il basso, si palesa in questo contesto. Negli anni 90 li avevamo un po' persi di vista, se ci pensi, cioè avevamo un po' perso di vista questa idea, c'eravamo un po' anti-berlusconianamente arroccati, no, su delle posizioni molto molto altolocate, e dopo alla fine vedi ora siamo ritornati a... Banfi sarà accettato da tutti, vedrai che tra PD, io non so se qualcuno ha già fatto delle dichiarazioni a livello politico, ma tra Partito Democratico, Forza Italia, Lega, Salvini, Bersani, tutti saranno, forse anche i Wuming secondo me saranno a favore della candidatura e dell'incarico blanfiano, a mio avviso. Poi vediamo che succede. Certo, ecco, io tutto mi aspettavo nella mia carriera tranne che sentire l'esegesi dei film di Lino Banfi, e invece ci siamo. E invece ci siamo. No, ma io ti invito davvero a riflettere su cosa è stato. È chiaro che adesso il media preferito, oltre che la rete, rimane ancora la televisione. Guarda che cosa fanno le fiction della Rai ancora a livello di ascolti, c'è davvero ancora un mondo dietro, e anche un mondo, tra le altre cose, questo è un aspetto interessantissimo delle fiction Rai, ci sono degli under 30 e anche under 24, ci sono delle buone percentuali nei dati d'ascolto, la televisione continua ad avere quella forza trainante, e se ci pensi, il Banfi anziano è davvero stato una delle bandiere di quel contesto. Ieri sera c'era Boni in televisione, ma Boni ha quel successo lì perché c'è stata una primogenitura alla medico in famiglia, e comunque ancora quel flusso lì ancora continua ad esserci, ribadisco, è un Banfi che da anziano ha tramutato, no, quella sua popolarità in qualcosa di immediato anche culturalmente. Io sfido chiunque a non essere d'accordo con questa famigliola gentile, altruista, generosa, solidale, no? Che è quella di Scarpati, del medico in famiglia, e quindi sì, effettivamente anche a me suona strano, però devo dire che è l'esatta descrizione di quello che sta accadendo nel nostro paese dopo gli anni 90, primi 2000, in cui c'è stata questa divisione forte fra cultura alta e cultura bassa. Adesso c'è di nuovo questa unione. Probabilmente sarà uno sfacelo, ecco, mi immagino Banfi che cosa possa fare anche dal punto di vista anagrafico, a un'età, mi pare che siamo 80 e rotti, quindi insomma sarà una cosa molto simbolica, è una questione di immagine, non dovrà fare un lavoro come dovevano fare gli ottantenni della Commissione Cultura a selezionare sceneggiature, no? Che nessuno poi aveva voglia di leggere, e le fanno leggere ad altri 80 ragazzi, ovviamente a gratis, mi riferisco a quella commissione dei Mereghetti, dei Magrelli, della Cicogna, no? Di Pupi Avati soprattutto, che nessuno aveva voglia di leggere le sceneggiature, più anziani, e le fanno leggere ad altri. Qui mi sembra che comunque il discorso banfiano è più simbolico, no? Detto questo, ricordiamoci anche che Zalone, è forse l'elemento anche qui di unione tra alto e basso oggi nel 2019, chi ha voluto per un cameo nel suo film non ha chiamato, che ne so, c'era Banfi è il cameo del film più visto in Italia negli ultimi 30 anni, 40 anni, insomma qualcosa vorrà pur dire, poi non so se nel bene o nel male, però qualcosa vuol dire. Sì, ti faccio un'ultima domanda, insisto sempre sulla politica. Esatto, e se questa decisione non rischia a livello internazionale di ridurre l'Italia a una macchietta, e da un lato, e dall'altro invece più prettamente per affari interni, se non sia anche così un po' una mossa di distrazione visti i problemi che il governo sta incontrando. Beh, guarda, come diceva quello, la seconda che hai detto, nel senso che insomma, sappiamo oramai come questo governo viva di continuamente o di ora in ora di pubblicità attraverso i social, cioè cerca di pubblicizzare una serie di scelte, di decisioni, prima di tutto a livello o dai social oppure appunto attraverso un'agenzia di stampa, insomma non c'è mai un vero iter, no? Classico, istituzionale, come si faceva nel 60-70, basta prendere una copertina, una prima pagina di un quotidiano, che ne so, del 74, per vedere che cos'era la politica all'epoca. Allora sicuramente questa mossa è una mossa, però è una mossa che copre un po' di problematiche, eccetera, ma devo dire che davvero ti sfido a criticare la figura banfiana, ma nel senso che Banfi non è mai stato un uomo estremista, no? Anche se un po' conservatore, però non ha mai avuto delle pulsioni razziste, è sempre stata questa figura un po' democristiana, possiamo metterla così, democristiana, la vecchia idea della DC in Italia. Banfi la potrebbe rappresentare senza problemi tra giovani e vecchi che lo guardano, che l'hanno guardato, e quindi coprire ovviamente un po' di falle e soprattutto la scarsa omogeneità, no? Che c'è tra questi due partiti che tutti i giorni si scornano su quasi tutto, direi, quasi tutto. Su Banfi no, la sintesi c'è. Guarda, io davvero sto aspettando, e lo dico con tra il serio e il faceto, comunque sto aspettando una contestazione a questa Ma è un tranello perché contestare sarebbe mettersi contro uno spirito popolare ampiamente maggioritario. Ma io vorrei fare un sondaggio tra gli ascoltatori di Fujiko, che sono, no, sicuramente, ma anche nella redazione. Sarei curioso, ne prendiamo 20, 30, 40, 50, vorrei vedere la percentuale di quelli che dicono no, ma poi, cioè, chiaramente anche qui l'UNESCO, insomma, stiamo comunque parlando, lo dicevamo poco prima, di una carica un po' eminentemente simbolica, però tu pensa se l'avesse fatto il governo Prodi, no? Avesse preso una decisione del genere il governo Prodi, non l'avrebbe mai potuta fare, perché c'era comunque quello stacco, no? Sull'anti-berlusconismo che non ti permetteva di inglobare. Questo grillo leghismo in qualche modo è una sintesi molto, molto, molto larga del paese. Io non me lo sarei mai aspettato, obiettivamente, però devo dire che sta avvenendo. Vediamo le prime critiche. Sulle prime critiche argomentate potremmo ritornarci su, secondo me. Certo, in ogni caso ricordo che insomma tu vai in onda su queste frequenze il giovedì sera, sì. E quindi magari, beh, sicuramente ne parlerete, immagino. Ci torniamo. Esatto. Lancerei anche un contest. Io ricordo quando nella redazione del Fatto abbiamo avuto ospite Diego Abbatantuono, abbiamo lanciato un contest su qual era il miglior film interpretato da Diego, ma tu non ti puoi immaginare la quantità di voti che sono arrivati in un'ora. Cioè ci sono comunque, poi Abbatantuono è un po' più sofisticato, no? Perché ha fatto qualcosa di più serio a livello cinematografico, però rimane il Terruccello, no? Rimane quella cosa che appunto si è affermata tra finire degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, para berlusconiano se vuoi, no? Per certi... ma la pill pop di un Abbatantuono, vecchi, meno vecchi, giovani, è impressionante, e Banfi è quella categoria lì. Ecco, allora quando si recuperano questi personaggi, devo dire che mi fa sempre impressione quello che è il seguito trasversale che hanno, e secondo me anche, non so, un Mereghetti sul Corriere si piegherà a questo incarico. Staremo a vedere ovviamente le reazioni. Vediamo che succede. Comunque io viva Lino Banfi tutta la vita. Tutta la vita. So da quelle parti William Piana è lì. Ha esultato ovviamente per la notizia. Ma noi viviamo di questi momenti. Comunque lanciamo un contest, il meglio di Lino Banfi, qual è il momento, l'apice della carriera di Banfi? Viene avanti Cretino, un qualsiasi la dottoressa che ci sta col colonnello, dov'è il massimo fulgore Bampiano? Sarei curioso di questo, chissà, vediamo.